Bentornati su Monarchia Interiore, dove diffondiamo e preserviamo informazioni e conoscenze che saranno necessarie per l'ottenimento e il mantenimento della libertà. Io sono Francesco Sani, il mio sito è monarchiainteriore.com. Oggi è il 12 marzo 2026. Ciao anche da me, sono Giulia Rodighiero e qui in Nuova Zelanda è il 13 di marzo. E il tuo sito è? giuliarodi.com. Ottimo, perfetto, quindi ben ritrovata ovviamente. Oggi sarà un episodio un po' diverso, è un piccolo fuori programma per così dire, perché sarà forse un'anticipazione di molte cose di cui discuteremo e che vedremo più avanti. Diciamo che sarà un antipasto piuttosto sostanzioso, per così dire, e potenzialmente anche un po' indigesto, a seconda magari di chi lo ascolterà, e incisivo, sì, come ho detto, ad alto potenziale anche offensivo, ma pur sempre veritiero. E detto francamente è anche così che certe cose vanno dette a volte. Mi è venuta l'idea, sono stato diciamo ispirato dal fatto che ho visto che in questi giorni, anzi ieri qua l'11 marzo, è stato dichiarato apparentemente da alcuni media alternativi o della controinformazione. L'11 marzo appunto è stato dichiarato la giornata nazionale della memoria dell'olocausto sanitario, in riferimento ovviamente a quanto è avvenuto 6 anni fa con tutta la vicenda del Covid. E credo che sia giusto ovviamente ricordarlo e non dimenticare quello che è successo, che è quello che poi, a partire da qualche anno fa, hanno tentato di fare un po' tutti i poteri, diciamo, il potere, la politica, è quello su cui praticamente si sono concentrati, diciamo, quando tutta l'operazione del Covid era in una fase discendente, per così dire, e sono iniziate tutta un'altra serie di eventi, oppure hanno cominciato a porre l'attenzione su tutta un'altra serie di eventi in maniera anche frenetica. E tutto questo perché hanno fatto e stanno facendo il possibile perché ci si dimentichi completamente di quel periodo lì. E direi che ci sono praticamente riusciti con la maggior parte del pubblico, che era inconsapevole a quei tempi ed è rimasto inconsapevole tuttora, fino ad oggi, almeno la maggior parte. Anzi, direi che le cose stanno peggiorando proprio perché non c'è stata a quei tempi quell'opposizione, vera opposizione, da parte delle persone che avrebbe dovuto invece esserci. Quindi mi tocca constatare amaramente che tutta quell'operazione lì della pseudopandemia è stata praticamente un successo, magari non completo, forse, chi lo sa, come avrebbero voluto, questo non ne sono sicuro, però è stato sicuramente un grande successo, perché hanno visto quanto veramente il pubblico sia manipolabile e sia anche obbediente, e credo che abbiano raggiunto da quel punto di vista quello che volevano realizzare. E adesso la situazione sta precipitando, a mio avviso, anche perché hanno avuto mano libera con l'operazione, tutta l'operazione psicologica e manipolativa del Covid. E anche, sì, è anche assassina in generale, perché non dimentichiamoci che sì, è stata una questione ovviamente di manipolazione mentale, ma hanno anche agito togliendo la vita a moltissime persone, anche nell'immediato, se ci ricordiamo tutta la vicenda di quelli intubati che poi sono morti e di quelli che venivano fatti morire per aumentare le statistiche, e poi dopo anche a medio termine, diciamo, con tutte le varie somministrazioni e tutti i vari, avvelenamenti a cui le persone si sono fatte sottoporre alla fine. poi le hanno sottoposte, sì, ma si sono, ci siamo anche fatti sottoporre a tutte le misure e a tutte le sostanze che hanno voluto, tutte le misure che hanno adottato e poi e dopo anche a tutte le varie le sostanze che hanno iniettato a moltissime persone che appunto l'hanno accettato senza ombra di dubbio, molti poi se ne sono pentiti. Sono parole amare, ma è la verità e no, condivido tutto quello che hai detto. Purtroppo è stato così. E questo mi ha dato l'idea di leggere la traduzione che ho fatto di una presentazione di Mark Passio, di cui ho diverse traduzioni sui miei canali, ho tradotto la maggior parte delle sue presentazioni. Questa in particolare è un discorso che ha tenuto a una protesta contro i lockdown negli Stati Uniti, in particolare nella città di Filadelfia, e credo rifletta anche bene quella che è la situazione e anche del mondo alternativo, della controinformazione, contronarrazione, eccetera. E appunto non ci va giù leggero, però come ho detto, io personalmente la condivido e credo che dipinga un quadro esatto alla fine della stragrande maggioranza anche di coloro che si ritenevano o si ritengono contrari a tutti questi piani del potere e di tutti quelli che pretendono di avere autorità su di noi. E sai in che anno è che era? Che è stata? Mi pare proprio alla fine del 2020. Ok, così presto, sì. Sì, verso la fine dell'anno, mi sembra. E comunque quando hanno cominciato a imporre quel tipo di misure, di restrizioni anche lì in molte aree degli Stati Uniti. E quindi sì, andrei avanti a leggerla. Non so se volevi dire qualcosa. No, volevo prima. Solo reiterare che un avvertimento che sì, Mark Passio è molto diretto. Quindi se c'è qualcuno che ascolta che è facile a offendersi, ma siete avvertiti. Sì, sì, l'avvertimento ve l'abbiamo dato. Benvenuti, io sono Mark Passio di whatonearthishappening.com. Vi dirò qualcosa che quasi certamente nessun altro relatore vi dirà mai. Ciò che ho da dirvi non sarà facile o piacevole da ascoltare. Ciò non di meno è la verità, e deve essere detta e ascoltata. Siete tutti qui a Filadelfia per protestare contro il lockdown e l'obbligo di mascherine, per questa cosiddetta pandemia, e credete che opporsi a tali obblighi tirannici dello Stato vi renda tutti buoni, tra virgolette. Ciò che vi dirò oggi è che la vostra opposizione a tali misure del governo, come i lockdown e gli obblighi di mascherina, non vi rende i buoni. Prima di ignorarmi immediatamente, fatemi spiegare cosa intendo. Io sono contro i lockdown e gli obblighi di mascherina tanto quanto chiunque altro qui. Con tutta probabilità sono molto più contrario a questo di chiunque altro qui oggi. Tuttavia, i lockdown e gli obblighi di mascherina non sono il vero problema. Sono sintomi del problema. Il vero problema è la questione di ciò che la maggior parte degli esseri umani continua sfortunatamente a credere nella propria mente. E sfortunatamente devo dirvi che la stragrande maggioranza di voi qui oggi è ancora parte del problema, a causa di ciò in cui crede ancora. State continuando a guidare la dinamica negativa di questa situazione sulla base di una falsa credenza in cui riponete ancora fede. Questa credenza è che il concetto stesso di autorità sugli altri possa essere moralmente legittimo. La credenza nell'autorità è la credenza che alcune persone abbiano più diritti di altre. È la credenza che alcuni possano legittimamente comandare gli altri. È la credenza che alcuni siano legittimi padroni, mentre altri abbiano l'obbligo morale di obbedire a questa classe di padroni, che chiama se stessa Stato. Secondo ogni vera definizione, ciò di cui si tratta realmente è schiavitù, se siamo onesti con noi stessi. E se veramente siamo onesti con noi stessi, la credenza nella legittimità morale dell'autorità è la credenza che la schiavitù sia moralmente legittima. Questa credenza è il vero virus. E questa credenza è ciò che ha moralmente infettato l'assoluta stragrande maggioranza della popolazione umana, inclusa la maggior parte di voi qui oggi. Negli ultimi 15 anni non ho fatto altro che provare a insegnare alle persone la vera moralità, l'effettiva, vera, definitiva, oggettiva differenza tra pensiero e azione moralmente giusti e pensiero e azione moralmente ingiusti. E sulla base di ciò che sto vedendo oggi nel mondo ho avuto poco o nessun successo, perché la maggior parte della gente crede ancora nell'autorità dello Stato con fervore religioso. Non solo la fede nella legittimità morale dello Stato è una falsa religione, che è antitetica alla vera moralità, ma la fede nell'autorità in generale è la definizione da manuale di setta. Una setta si forma quando dei seguaci di un falso sistema di credenze diventano fisicamente pericolosi per coloro che non si conformano alle loro credenze deviate, compiendo e approvando atti di violenza e coercizione contro i non credenti. La credenza nello Stato è la credenza che alcune persone abbiano il cosiddetto diritto di usare violenza e coercizione contro altri, che non hanno compiuto aggressione contro nessuno. Approvare una tale condizione immorale fa di qualcuno una cattiva persona. Sì, proprio così. Fatemelo ripetere. La credenza o l'approvazione di una tale condizione immorale, la schiavitù dello Stato, fa di qualcuno una cattiva persona. Sì, proprio così. La credenza o l'approvazione di una tale condizione immorale, cioè credere nella legittimità morale di autorità e Stato, fa di qualcuno una cattiva persona. Sì, proprio così. Vedete? La maggior parte delle persone qui oggi vuole porre fine ai lockdown perché i lockdown li colpiscono personalmente. Ma se ne aveste la possibilità, vorreste che lo Stato costringesse gli altri per le cose che volete voi. Se voi ne teneste le redini, se voi aveste quel potere in mano, allora sarebbe un'altra storia. La maggior parte delle persone non vuole smantellare l'apparato dello Stato. Vuole controllarlo, vuole usarlo. E crede erroneamente di poter controllare una tale istituzione immorale. Questa è una delle principali ragioni per cui non puoi essere veramente una brava persona e sostenere e credere nella legittimità morale dello Stato. Fatevi solo questa semplice domanda. Il concetto di regalità nel vecchio mondo è mai stato moralmente legittimo? È mai stato moralmente legittimo per un re pretendere di essere il governante di tutti sulla terra che costituiva il suo regno, che la sua parola fosse legge e che chiunque disobbedisse ai suoi dettami sarebbe stato soggetto alla violenza dei suoi scagnozzi? Quella condizione è mai stata moralmente legittima? Naturalmente non è mai stata moralmente legittima. Ma cos'è veramente cambiato nel mondo moderno? Niente. Non è cambiato niente. Oggi la maggior parte della gente non crede nell'autorità di re e regine. E anche su questo avrei qualche dubbio, tra parentesi, nota del traduttore. Ma abbiamo semplicemente sostituito il concetto di regalità con il concetto di autorità conferita allo Stato. Nel vecchio mondo, la credenza nell'autorità si rifletteva su di una persona, che chiamava se stessa re o regina. Ma nel mondo moderno abbiamo preso la stessa identica idea e preso la fede nell'autorità, che prima era riposta in un solo essere umano, e l'abbiamo trasferita su un gruppo oligarchico di padroni e chiamata Stato. È immorale proprio come lo è sempre stata. Ma è anche più insidiosa, è anche più difficile come mai prima per la maggior parte delle persone comprendere che questa condizione, chiamata credenza nell'autorità, è completamente immorale. È più difficile oggi per la gente capire che è immorale. Oggi credono veramente nella sua legittimità morale. Chiunque sostenga e approvi la credenza nello Stato fa parte a tutti gli effetti di una setta, è membro di una setta e quasi tutti non sanno neanche di esserlo. Coloro che supportano la continuazione di questa setta e ci credono, proprio per la loro credenza, sono sostenitori della schiavitù e credono che questa debba continuare. Ciò costituisce esattamente la definizione dell'essere una cattiva persona. E queste cattive persone stanno creando il caos che stiamo vivendo mediante ciò che fanno e ciò a cui acconsentono. Chiunque aderisca a questo sistema di credenze settario è complice di ciò che sta accadendo e sta portando su di sé e su tutti gli altri condizioni ancora peggiori. La setta dei credenti nello Stato e i suoi esecutori di ordini stanno mantenendo al suo posto il sistema di schiavitù in cui stiamo vivendo oggi. In realtà se la meritano la schiavitù a cui hanno acconsentito. Il problema è che stanno trascinando molti, molti altri che credono nei veri diritti e nella vera libertà in quel pantano insieme a loro. La definitiva, fattuale verità è che non c'è nessuna autorità conferita all'umanità. Le leggi del creatore dell'universo sono l'unica autorità in natura. I nostri diritti provengono dal creatore dell'universo e dalle sue leggi morali spirituali, non dal genere umano, non dallo Stato. Non potete fare appello a un'autorità illegittima per chiedere dei diritti che sono vostri dalla nascita. Lo Stato non ha legittimità morale per esistere e nessuna cosiddetta autorità ha diritto di avanzare rivendicazioni sul possesso del vostro corpo, della vostra proprietà e dei frutti del vostro lavoro. Ogni rivendicazione di tal fatta è una pretesa di possesso su di voi, che è chiamata schiavitù. Purtroppo la stragrande maggioranza di voi questo ancora non lo sa. La stragrande maggioranza di voi sarebbe ancora in netto disaccordo con questa verità, a causa della programmazione mentale a cui siete stati sottoposti nel corso della vostra vita. Tutte le vostre proteste e suppliche al governo per i vostri diritti non serviranno mai a niente, finché non capirete che i concetti stessi di autorità e Stato sono i veri virus. Sono programmi di controllo mentale. Sono quelli il vero nemico. E sfortunatamente la maggior parte di voi ancora crede nella loro legittimità. Proprio la vostra fede nell'autorità è ciò che sta alimentando il potere di questa classe di padroni per dominare su di voi. E siccome la maggior parte di voi si sta ancora fermamente rifiutando di abbandonare quella credenza settaria, non aspettatevi che la vostra situazione migliori. Aspettatevi che diventi enormemente, profondamente peggiore. L'unica soluzione è sviluppare una comprensione della legge naturale, delle leggi morali che governano veramente l'intero universo e la nostra stessa esistenza umana, accertandosi che noi, personalmente, riceviamo da questo mondo esattamente ciò che abbiamo immesso nel mondo, mediante i nostri pensieri e le nostre azioni. Quando studierete come funziona la legge naturale, scoprirete che il fatto che l'umanità viva in libertà o schiavitù fa parte di questo corpo di leggi morali. Io personalmente mi riferisco a questa dinamica come legge della libertà. Al crescere della moralità collettiva dell'umanità, questa diventa e rimane più libera. Al diminuire della moralità collettiva dell'umanità, questa diventa e rimane collettivamente sempre più schiava. Tutto ciò che dovete fare è osservare il risultato manifesto. Come specie siamo liberi o schiavi? E se siete onesti nel rispondere a quella domanda, la sua risposta vi consentirà di vedere quanto esattamente siamo morali come popolo o come specie. Se siamo onesti con noi stessi, ciò non è molto incoraggiante. E per essere ancora più onesti e schietti, la maggior parte di voi sta contribuendo alla manifestazione negativa, al risultato negativo, proprio per la natura di ciò a cui voi stessi ancora vi aggrappate nel vostro sistema di credenze che è falso e immorale. Finché non cambierà la vostra mente, la realtà intorno a voi non potrà migliorare. Questa è legge universale. Stiamo manifestando esattamente ciò che non vorremmo, perché come specie siamo quasi completamente inconsapevoli di come funzionano le vere leggi di manifestazione. Funzionano sulla base dell'essere veramente morali o no. E come specie siamo più che certamente degli esseri immorali, per ciò in cui crediamo e ciò che continuiamo a consentire. L'umanità si merita ciò che sta ricevendo e riceverà ciò che si merita in accordo con le leggi naturali, le leggi del creatore dell'universo, l'unica autorità legittima in questo mondo. Le manifestazioni negative che si stanno verificando e continueranno a verificarsi sono manifestazione dei nostri pensieri e azioni e continueranno a peggiorare finché non prenderemo la decisione consapevole di cambiare ciò in cui crediamo. Questo cambio nella consapevolezza non sarà facile o divertente. A causa della nostra persistenza e insistenza nel credere in ciò che è falso e nel credere e approvare ciò che è immorale, questo cambio nella consapevolezza sarà una tremenda grande opera. Dobbiamo liberarci dalla nostra falsa credenza nell'autorità, o altrimenti niente cambierà per il meglio. Voi stessi dovete andare molto più avanti dal punto nella consapevolezza in cui la maggior parte di voi si è fermata. Se non farete, ognuno di voi come individui, quel grande cambiamento consapevole dentro di voi, il risultato negativo che riceverete si manifesterà perché proprio voi gliel'avrete permesso. Se compirete quella scelta negativa continuando a credere nella legittimità morale dell'autorità, che è la credenza nella legittimità morale della schiavitù, allora sappiate che siete stati proprio voi a scegliere la schiavitù. Proprio voi avete scelto queste condizioni. Proprio voi avete contribuito a renderle manifeste. Non dite che non vi avevo avvertito. Ho avvertito le persone per gli ultimi 15 anni della mia vita. E per coloro per cui questa pillola amara non è stata facile da ingoiare oggi, potete sentirvi liberi di offendervi quanto vi pare. Non cambierà la definitiva verità sulla questione. Ed è tutto quello che ho da dire. Quindi ecco a voi il discorso di Mark Passio, che ho tradotto anni fa in italiano. E che dire, come ho detto, sì, direi che rappresenta bene lo stato d'animo e lo stato di consapevolezza, purtroppo ancora, della maggior parte anche di coloro che seguono la controinformazione o i media alternativi. Volevo forse suggerire, se c'è qualcuno che si è imbattuto in questo podcast e non sa esattamente quello di cui stiamo parlando, perché come Francesco, come hai detto nel discorso di Mark Passio, si sono anticipate parecchie cose che poi approfondiremo più avanti nel podcast, eccetera, però volevo dire, suggerirei un libro, il libro di Larkin Rose, che è anche stato tradotto in italiano, che si chiama La più pericolosa delle superstizioni. Secondo me ci sta abbastanza bene, può far riflettere e capire meglio certi concetti che Mark Passio ha detto nel discorso. Sì, penso che potrebbe essere una buona idea. Come abbiamo detto, questo anticipa di un po' anche quello di cui parleremo qui nel programma. Però, come dicevo all'inizio, ho colto questa occasione, mi sembrava opportuno leggerlo e anche ancora una volta per far capire anche la direzione in cui andremo. Sì. Sì, giusto. Per non lasciare, sì, non lasciare adito magari ad altri dubbi, e anche qui per essere chiari fin dai primi episodi. Però ritorneremo, sì, su molti di quei punti, ma è importante far capire anche qui fin dall'inizio che la presa di consapevolezza che c'è stata anche a partire da tutto il periodo del Covid non è sufficiente, ancora non è sufficiente. Certo, noi non, come abbiamo detto, non ci aspettiamo poi un granché, però bisogna anche dire che effettivamente bisogna far riflettere che finché continueremo, anche chi non è d'accordo, ma finché continuerà a supplicare quel potere che per sua stessa natura è fatto apposta per opprimerci, le cose allora sì che non cambieranno mai e sì che andranno sempre a peggiorare. E c'è ancora purtroppo questa fede, anche tra chi protestava e chi protesta tuttora, è ancora purtroppo ben radicata la fede nell'autorità, nel potere. E questo assicura e fa sì che il potere continuerà a seguire i propri piani e ad andare avanti nella sua opera di schiavizzazione e controllo totale degli esseri umani su questo pianeta. Sì, esatto, finché questo non cambia, la situazione umana non cambierà, anzi, diventerà sempre peggio. Sì, abbiamo parlato dei requisiti necessari, che ci vogliono dei requisiti per ottenere quello che diciamo di volere, se vogliamo, se vorremmo anche più libertà e autonomia anche da, ed evitare, diciamo, opporci a operazioni psicologiche e al resto di tutti i piani che il potere ha in serbo per noi, così come stiamo facendo adesso, cioè già la poca opposizione che c'è adesso non è sufficiente, non ha i requisiti, non ha veramente i requisiti per poter mettere un freno decisivo o mettere termine al nostro stato, alla nostra condizione di schiavitù. Bene, quindi anche per oggi possiamo concludere. Ci vediamo la prossima volta. Continueremo ad andare avanti con il nostro programma, dalla prossima volta. Grazie Giulia e a presto. Grazie a te Francesco e ciao a tutti.